Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Noi a quarto abbiamo combattuto contro la camorra ed è un passo importante che tutti i comuni amministrati del Movimento 5 Stelle dovranno fare, che la lotta alla camorra non ha un colore politico, non ha un colore politico, è una lotta di tutti e i voti della camorra ci fanno schifo. Se non mi unisco al coro, come fa il PD per esempio, che non ha nessun titolo per parlare in quelle zone di moralità perché ha governato per anni e anni in quelle zone, certo non è stato un paladino della moralità pubblica. Sono sempre molto riluttante a utilizzare in termini propagandistici le vicende politiche e lo ripeto anche per quarto, anche se ovviamente è doveroso per i 5 Stelle dare qualche risposta chiara. Alla fine non è che sono stato io a prendere i voti di qualcuno che non era, come dire, propriamente un oxfordiano. Sono per dire con grande chiarezza agli amici 5 Stelle che il tempo del propagandismo, dell'infantilismo è finito. Facciamo le persone serie, risolviamo le questioni, ma togliamoci dalla testa l'idea che ogni mattina si alzano gli amici 5 Stelle per distribuire patenti di moralità a destra e a manca. La capa vuota vuota attorno attorno, attorno a te. Lucore canta sempre del tuo reno, scusa mai me. Iamma, iamma, coppa iamma, iamma, iamma. Ebbene sì, cari ascoltatori. Ebbene sì, a quarto pare consumarsi il dramma politico, uno dei primi drammi politici del Movimento 5 Stelle. Adesso la situazione è che il Movimento chiede al sindaco di dimettersi e il sindaco Rosa Capuozzo dice manco pa capa. Questa tecnicamente è la posizione attuale, ma ne parleremo, è una delle varie cose che affronteremo più tardi alle 8.15. Intanto ben ritrovati cari ascoltatori, riparte 24 mattino, la 141esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Sarà quella decisiva? Chi lo sa? Qui sono le 6.33 minuti, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, siamo pronti ovviamente a discutere di tanti temi con colui che torna anche nel 2016, ebbene sì, l'uomo che ha fondato Mandarin Partners, imprenditore, investitore, presidente dell'Osservatorio Asia, sguardo nostro sul mondo, il nostro Albertone Forchielli. Buongiorno Alberto. Ciao Alino, come stai? Hai visto che ti accolgo con Pavarotti? Sempre Pavarotti. Fantastico. Come va Alberto? Dove sei? A Bangkok. A Bangkok? E che ci fai a Bangkok? Ti sposti un po'? No, mi sono trasferito. Ah. A Hong Kong mi sono trasferito. Ah, meglio Bangkok. Il primo giorno di lavoro. La borsa di Shanghai ha sfondato il pavimento, sai, io mi sento come Mosè dopo aver attraversato il Mar Rosso. Addirittura? Ah sì. Vabbè. Sai. Erano due anni che dicevo l'economia cinese è ingroppata, i numeri sono taroccati, Hai quasi esultato, hai quasi esultato quando... No, esultato no. Però. No, la cosa che mi sorprende è che tutti questi gestori di fondi, della finanza, è una cosa talmente ovvia. Ci voleva un babione come me di 60 anni a dirlo. Ma cerca di spiegarcelo così in parole semplici, che qua alle 6:30 del mattino la gente che sta succedendo in Cina? Come mai vanno a carte 48 sempre? Allora, prima devo fare una precisazione. Sono appena arrivato. Sì. Sono in mezzo ai cartoni. Ne ho 85. Per il trasloco. Comunque, Alino, devo dire che sempre in mezzo ai cartoni, che voi del Milan... Che siete a cartoni. Mamma mia, anche tu con il Milan. Adesso perché ci avete battuto settimana scorsa con Giaccherini. Mamma mia, Giaccherini, non lo devo togliere sto groppo. Ancora una ce l'hanno. Una volta di 20 anni non vedrò mai più uno scudetto, ma una volta di 20 anni. A San Siro. Eccola là. A proposito, visto che sei a Bangkok, se incontri Mr. B. Se incontri, magari lo incontri, vai al ristorante, non è mica thailandese, sta mica a Bangkok. Digli un attimo se c'hai i soldi per salvarci, così, che c'ha il trovato. No, a parte che adesso a Bangkok, Mr. B, miei rispetti, striscio lungo i muri, perché Mr. B mi fa prelevare, no? E scompaio per sempre. Ma no. Dopo la crisi, dopo... Lui ha preso una grossa botta con la crisi di luglio. Con questa crisi qui non credo proprio che sia possibile tirare su quei soldi. Certo. Proprio. Già non ci credo, non ci ho mai creduto. L'hai chiamato Mr. Bean, Mr. Bean dal primo giorno, figurati. Sì, la vedo molto difficile. La vedo molto ancora. Sì. Vabbè, invece spiegaci un po' in Cina cosa sta succedendo, come mai perdono così tanti soldi? Chi è che perde soldi? Chi è che fa affondare le borse? Ma no, sai, quando il governo incomincia a pasticciare coi mercati, dopo i mercati diventano, non funzionano più. Cioè, i cristi del partito pensano di essere in cima al mondo, quindi avevano pompato il mercato l'anno scorso perché volevano abbassare il debito, quindi passare alle azioni, l'avevano pompato, il mercato le prese sul serio, è andato alle stelle, poi... A un certo punto hanno capito che non poteva tenere, quando è sceso, questi l'hanno preso come un'offesa personale, quello del partito. Come? Non può scendere il mercato contro la nostra volontà, quindi hanno incominciato a comprare per sostenerlo il governo. E poi hanno bloccato le vendite, ma una roba così non può tenere. Era una bolla. C'erano tutti i grandi investitori così. Cioè, non puoi... Adesso la gente è qui che dice chissà cosa decide il governo oggi pomeriggio, ma il mercato è andato. E l'economia... Però non è un gran problema per noi, insomma, sostanzialmente, perché ormai l'economia era ferma da 2 o 3 anni. In Cina. I numeri sono sempre stati taroccati, sì, l'ho sempre detto. Cioè, ormai è il lusso, le macchinari, quella roba lì ormai è ferma da 2 o 3 anni. L'economia non cresce ai tassi che loro dicono. Quindi, però non ci sono riflessi negativi per noi? Per No. non sono così preoccupato. Cioè, No. Oddio, sai, qui... Io sono 21 anni che sono da queste parti, ancora non ho visto un numero che si toccasse con quell'altro, per cui tutte le sorprese sono possibili, però non ci sono numeri, non si sa cos'è il deficit pubblico, non si sa cosa sono i debiti delle banche. Ho capito, che fanno? Se li inventano, gonfiano le cifre. Non li danno, in parte non li sanno neanche loro, in parte si ingannano tra di loro, se le province ingannano il governo centrale... In parte non li vogliono dare in questa segretezza, per cui si vive un po' in una nebbia, però il senso ce l'ho dopo tanti anni. Secondo me il mercato l'ha rovinato e rimarrà sballato per molti anni. L'economia ha rallentato, siamo alla fine di un grandissimo ciclo che dura 35 anni di crescita spaventosa, mai visto al mondo. Adesso si ritorna a tassi normali. Una crescita più o meno adesso qual è? No, giusto per fare l'esempio con l'Italia. Adesso sarà il 4. Quattro. Non è male. 4, sì, difatti... Che straccioni il 4. Noi invece. Ma quando sento che l'Italia, la crisi della Cina, il problema Cina, averse meglio di problemi. Sì, avere una ripresa del 4% magari. Ne prenderemo forse anche la metà. anche la metà forse del 4%, sì. noi italiani, e invece noi italiani. Tra l'altro, hai visto, ecco lì invece i cinesi potrebbero fare una cosa almeno con la Corea del Nord, che almeno una cosa buona, visto che li tengono su, adesso dicono che c'hanno una bomba a idrogeno, poi è così, dalla Corea del Nord dicono hanno la bomba a idrogeno, il giorno dopo chi se ne frega, cioè Kim Jong-un basta, nessuno ne parla, eccetera. Beh, la notizia mondiale lì è Rusty che garantisce, fa garante, come, vorrebbe un mandato a ONU per parlare con Kim Jong-un. Io lo manderei a fanculo comunque, Rusty, invece di un mandato gli darei io un mandato personale. Ma a parte questo, i coreani sono lì, sono schiacciati, non vogliono né essere assorbiti dalla Cina, né essere integrati con la Corea del Sud. Questi sono singuti di un bambino, vogliono costi che gli americani rientrino in scena. In realtà i coreani del Nord vogliono la presenza americana perché non vogliono essere assorbiti dagli altri, vogliono mantenere la loro identità, per cui ogni tanto fanno spaccano un giocattolo per farsi notare. Senti, tra l'altro, Alberto, ti faccio sentire Marco Rizzo. Tu te lo ricordi Marco Rizzo? Tutto quello tutto pelato come un te. Calciatore. No, non un calciatore, quello dei comunisti, era dei comunisti di Rifondazione, adesso credo che sia candidato anche sindaco a Torino, forse si candida, non lo so. Comunque, quello pelato, è presente? Uno pelato? Senti qua, le uniche atomiche chi le ha usate? Senti, La del Nord avrà la bomba atomica, forse c'era già, anzi, e perché tutto sto casino? La prima bomba atomica, l'unica bomba atomica, le uniche due bombe atomiche sono state tirate sulla Terra, sono state tirate dagli americani, che sono quelli che dicono noi ce l'abbiamo, gli altri non la devono avere. Eccolo lì, capisci Marco Rizzo? Guarda, hai sentito rigurgito di uomo di sinistra. Ma sai, l'unica roba vera, quelle robe che dice, che i coreani hanno visto Assam, Saddam Hussein, che non ha fatto le bombe atomiche ed è finito come è finito. Gheddafi che ci ha rinunciato, che è finito come è finito, loro hanno detto vabbè, è meglio perfezionarle piuttosto che sperare. Vabbè, con gli esempi che hanno davanti agli occhi di altri dittatori, chiaramente loro la fanno. Allora, intanto, se veniamo a cose un po' più italiane, vorrei capire cosa. Hai sentito tra l'altro che il Fatto Quotidiano da due giorni che si lamenta perché dice che Renzi e la delegazione di Renzi in Arabia Saudita si è tenuto un po' di Rolex che sono stati distribuiti dai sauditi. È arrivata questa notizia? No, non lo so. Sì. Ma secondo me Palazzo Chigi le ha già rivendute a tutti free. E poi si è fatto dare anche il tax refund, sicuro. Cioè, il fatto dei regali dei sauditi è una roba nota. Cioè, tempo, direttamente dici, in aeroporto proprio. Non ci sono più perché le hanno vendute, poi ho fatto dare anche il rimborso IVA. Però, quella è una roba vecchia. I diplomatici della Farnesina lo sanno benissimo e li rifiutano. È una pratica corrente alla Farnesina. Poi lì il capo delegazione, in questo caso Renzi, avrà avuto un regalo cosmico. Non è che lui gli è andato solo un Rolex d'oro. Cioè? Quando andò Prodi, gli dettero una roba incredibile. Gli fecero un dono incredibile. E dopo Prodi lo lasciò lì a Palazzo Chigi, fece lui il provvedimento per far l'atto di beneficenza. Che poi fu implementato da Berlusconi, quel provvedimento lì fu corretto da Monti, ma fu Prodi a farlo. Sì. Perché ricevette sto regalo che non sapeva dove mettere, imbarazzantissimo. C'è un fucile, un fucile d'oro. Era un fucile d'oro tempestato di pietre preziose. Dopodiché l'asta fu implementata da Berlusconi, non so quanto hanno preso questa roba. Ma bisognerebbe fare così, darle all'asta. Io vorrei sapere cosa ha regalato a Renzi e dove ha messo. Vabbè che adesso che Renzi dice che siamo tornati a essere una locomotiva, peccato che manchino i binari. Mancano i binari. Vabbè, dai, abbiamo già la locomotiva. È un buon. Sì, andiamo sulle ortiche. Tagliamo sulle ortiche. Sulle ortiche. Tra l'altro, Renzi ieri ha parlato al TG1. C'è questo grande dibattito in Italia che viene vissuto così all'italiana: il reato di immigrazione clandestina va fatto, va tenuto? Sì, no, sul tema dell'immigrazione clandestina, il reato in quanto tale, secondo i magistrati e gli esperti, non serve, non ha senso, anzi crea problemi e intasa i tribunali, ma è anche vero che c'è una percezione di insicurezza da parte dei cittadini, per cui questo percorso di cambiamento delle regole lo faremo con calma, tutti insieme, senza fretta. Lo faremo con calma, tutti insieme, senza fretta. Traduzione: volevano togliere il reato di immigrazione clandestina perché hanno detto che non serve a niente, ingolfa i tribunali, eccetera. Il nuovo centrodestra di Alfano si è opposto e adesso lo faremo con calma, senza fretta. In realtà voleva farlo ieri, Renzi, ma... purtroppo insomma è così, e quando si vuole fare una cosa in Italia è sempre difficile, bisogna guardare sempre tutti gli equilibri da una parte e dall'altra. Vabbè, insomma, siamo la locomotiva, siamo alle ortiche, però dici non ci sono i binari. Ti piace almeno Renzi che tuona contro l'Europa? Sì, su quella roba lì dell'immigrazione non ci capisco niente, da fuori è impossibile. Cioè il problema del clandestino, i reati, compagnia, come pure il tema dell'immigrazione è un tema colossale di cui non posso neanche parlarne perché bisogna essere veramente preparati. Due cose ti posso dire dal mio osservatorio. Il primo, che la religione musulmana è una religione che non tiene il passo col mondo moderno. Una religione che vieta, al di là di fatti colori, ma che vieta un ruolo attivo delle donne nell'economia, non può reggere. Cioè le economie moderne hanno assolutamente bisogno di un ruolo molto molto attivo delle donne, quello che sta facendo Abe in Giappone per rilanciare l'economia giapponese. E tutte le imprese migliori, c'è una correlazione diretta tra partecipazione delle donne nel e mercato del lavoro, certo, delle migliori aziende. Certo. Non solo una correlazione tra tasso di partecipazione e GDP e PIL, ma anche le migliori imprese al mondo sono quelle, statisticamente provato, sono quelle che hanno un'alta partecipazione del no top. ma non c'è dubbio. Ma guarda Alberto, tra un attimo, dopo il traffico, la segreteria telefonica, in realtà tu hai citato Colonia, però ti voglio chiedere qualcosa di Colonia perché la vicenda è diventata mondiale. Ancora oggi i giornali italiani titolano su Colonia, cioè pare che ci fosse un attacco mirato e ben congegnato al grido di colpite la donna bianca. Ecco, questo la polizia tedesca sta indagando su questo, su alcune informazioni che circolavano su Twitter prima degli attacchi di Capodanno. Ma dopo il traffico con Alberto Forchielli, torniamo tra un attimo. Massima di Confucio: ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il vostro. Sento dell'intenzione del governo di abolire il reato di immigrazione clandestina. È un bel modo di affrontare i problemi, eh? Allora, per combattere la corruzione, cosa facciamo? Aboliamo il reato della corruzione, così risolviamo il problema. Caro Milan, sei tornato, cagatene, cagavezza in carne. Ciao Milan, ti abbracciamo. Ciao Alessandro, beh, intanto come puoi notare questo messaggio te lo mando prima dell'incontro del secolo. Come qual è? Roma Mela, no. Se ti puoi, intanto vada come vada, te, due settimane alla fece, ti hai fatto, eh? Senti, ti faccio una proposta. Se dovesse vincere il Milan, cosa ne dici se ci vado io una settimana a tue spese, visto che sarai euforico? Beh, se dovesse perdere, continuerò ad ascoltarti da casa Puzzolengo. Vabbè, eccoci qua, cari ascoltatori, a nostra segreteria telefonica con Alberto Forchielli. Caro Albertone, allora, dicevamo a Colonia, hai visto, forse attacchi mirati. Senti qua la Santanchè, amica tua sicuramente, la Santanchè cosa dice dei fatti di Colonia? E c'è ancora chi ha paura a parlare di terrorismo islamico. Cioè quello che è successo a Colonia io lo chiamerei terrorismo sessuale. Il terrorismo sessuale. Hai sentito? Vivono di poco da fare. Guarda, io li vedo da qua, ossia gli indù, quei musulmani, un disastro, e lì si creò anche la spaccatura tra Pakistan e India, 47, il più grande esodo della storia. In Birmania, che sono buddisti, fanno a botte. Coi cinesi musulmani, manco a dirlo, voglio dire, religione non facilmente integrabile, c'è poco da fare. Religione un po' non al passo con i tempi, difficilmente integrati. Poi dopo le degenerazioni sono quelle che sono. Poi non è che non gli piace la figa, perché qui sono tutti ai bordelli, giusto per chiarire. Che... No, voglio dire, c'è un intero distretto, appena escono dal loro paese, sac. È chiaro, infatti è una questione di come vivono. Nel loro paese no, ma appena escono sono... Vengono da noi, voglio dire, io... Dici, io qualche riserva, io proprio non credo che sia proprio integrato. Non è integrabile, ho capito, ma non è integrabile, cosa dobbiamo fare? Cioè, non mica possiamo... Non te lo dico a Parlamento, non è roba da battuta. No, non è roba da battuta, questo no. No, ma infatti è non troppo è... troppo lungo per dire sul serio, però sono abbastanza vicino a chi dice che bisogna selezionare l'immigrazione. Ma come? Cioè, selezionarla nel senso, cioè, come fanno in Australia, come... Magari. Il problema è che lì ogni paese è europeo è troppo piccolo per farlo. Se ci mettiamo insieme non andiamo d'accordo, per cui il problema è irrisolvibile. Sì. Allora, caro Alberto, chiedono intanto qualcuno il selfie del piedone, non dimenticarlo. Sapete che Albertone Forchielli... Perché c'è la Foschia oggi, ma te lo mando lo stesso. Vabbè, ho capito, cioè dal tuo volto al piede c'è la Foschia. Ah no, perché lo metti... Vabbè, volevo mandare col panorama di Bangkok, ma c'è la Foschia. E vabbè, mandalo col panorama di Bangkok, ci fai vedere che a Bangkok c'è un po' di Foschia, insomma, un po' di sfiga anche a te. Adesso non è... Hai che visto possiamo... che ha inciampato il tappo? Ha inciampato il ciapo dove Sean Penn, dove è andato Sean Penn. È uguale a Smile. Effettivamente. No. È vero, un po' di somiglianza con Umbertone Smaila, del capo del cartello di Sinaloa in Messico. Il ciapo c'è. È uguale. C'è, ho capito. E il discorso di fine d'anno di Mattarella? Io ero all'estero, non l'ho sentito. Tu l'hai seguito? Avevamo esaurito le carriole per trasportare i maroni fino al collegamento, c'è una cosa. Quell'istituzionalità, bisogna cambiare il registro questo paese. Non ti è piaciuto? Quelle frasi scontate. Non ti è piaciuto. Ma è il capo dello Stato però, Albertone, Attenzione, sulla tenda. Qui c'è querela per vilipendio. Infatti. Puoi cancellare questo pezzo? No, non possiamo cancellare, siamo in diretta, sai com'è. Mi è scappato. Appunto, ritiriamo. Facciamo riverenza nei confronti del capo dello Stato e del suo discorso che io non ho seguito, per cui non sarei assolutamente in grado di poter commentare, sto cercando di rimediare. Come la pensa i capi. Eccolo, sì, ho capito, però anche tu, Alberto, se metti il carico da 90. Metti il carico da 90, insomma, non ho mica capito. Allora, dici qualcosa. L'altro dramma. Che cosa? L'altro dramma è tutte queste banche. Cioè, al di là di appunto delle banche, ti volevo chiedere. Sì, quelle quattro lì, più Monte Paschi, più le Venete, le banche a Veneto Banca, Popolare di Vicenza, poi le altre che non mi ricordo. Il problema, si diceva che Roma era malata, ma qui cioè, la provincia è malata, capito? Effettivamente, tutte le piccole banche. A Ferrara, dietro l'angolo da casa mia si sono mangiati la banca. Ferrara, io non so. Banca Etruria, ti posso solo dire che il padre di Renzi che esce da un fallimento, il padre della Boschi che esce dalla bancarotta, ma non è che faceva una gara tra chi arriva prima in tribunale con i libri? Non lo so. Sono tutte vicende ancora da chiarire. Mettiamola così. Sì, no, i figli può avere bravi ragazzi, i genitori sono invertiti ruoli. Comunque, senti qui Renzi che tuona contro l'Europa, l'austerity dell'Europa. Recentemente anche Enrico Letta, che era il premier prima di Renzi, ha detto: ma non si fa la politica dicendo noi non accettiamo più diktat dall'Europa. Ma ieri Renzi al TG1 ha ribadito proprio questo. L'Italia in questi anni ha fatto tutte le riforme che per anni si erano soltanto promesse. Dunque noi adesso abbiamo le carte in regola. E abbiamo le carte in regola per dire che l'Europa su alcune cose deve cambiare. Sulla politica economica in questi anni Obama ha riportato gli Stati Uniti alla crescita. In Europa l'austerity ha fatto perdere posti di lavoro. Eccolo lì, interessante. Cioè Renzi che guarda Obama, è la strategia di Obama quella vincente, mica quella dell'Europa. Allora, Obama ha fatto un gran deficit di bilancio, poi l'economia si è ripresa, adesso il deficit è rientrato e stiamo sotto il 3, e lui è arrivato al 10, all'11. Quindi, cioè, al 50% ha ragione lui, se i tedeschi sono delle bestie. Con questo imporre il rigore è una roba atroce. D'altro canto, sai, un paese col 130% di debito sul PIL non è che possa fare tanti deficit, queste sono balle. Ossia, gli Stati Uniti sì, sono potuti uscire con una leva fiscale molto forte, ma noi quanti debiti vogliamo fare ancora? Per cui lì Renzi ci gioca, perché non è pensabile che il mondo ci lasci fare altri sforamenti, avendo visto che in 40 anni i debiti, insomma, non facciamo altro che accumularli, non li tagliamo mai. Questo è il problema. Comunque il debito è sempre la nostra zavorra. Che devi fare? A un certo punto la gente smette di darseli, che è tutto lì. Vabbè, caro Albertone, che dobbiamo fare? Qui, insomma, le banche sono. Ma oggi c'è tra l'altro una bella pagina del Corriere della Sera che tra poco leggerà la segna stampa sulle banche, proprio quelle piccole, no? Le banche di provincia, come le definite tu, quelle che hanno creato e creano più problemi. E che devi fare? Siamo un po' provinciali anche in questo. Non sappiamo fare le cose in grande, no? Però. Renzi è fatto molto fiero di questo decreto salva banche, ma non è che è proprio un decretino. Ma chi? No. Un decretino. Sì, così. Si poteva fare di più. Così, visto che avevamo ancora magari qualcosa da sperare come appoggio per difenderci nel caso di accusa di vilipendio al capo dello Stato, anche dal Presidente del Consiglio. Lo salutiamo con affetto da Bangkok. Senti un po', Alberto, lì a Bangkok c'è posto nel caso mi debbano cercare. Insomma, va bene. Divorzi, quando uno divorzia, dice sì. Tutte le volte: porco cane, dovevo farlo 5 anni prima, 3 anni prima. Adesso è arrivato a Bangkok, ti chiedi col sole, con tutto. Ma perché ho aspettato tanto a venire? Venire qui 3 anni prima. Vabbè, intanto ci mandi il selfie col piedone e con la foschia e con la nebbiolina. Vabbè. Però, caro Alberto Forchielli, ti ritroveremo presto, spero. Sistema i cartoni. Se incontri Mr. B, salutacelo. E ci ritroviamo alla prossima. Un abbraccione, ovviamente. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza, cari ascoltatori, la 141esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata. Eccoci qui a leggere i giornali, a parlare con voi, a raccogliere le vostre idee dalle 8:15, ovviamente al numero 800240024, questo è il numero di telefono, oppure se volete mandarci un messaggio 349-238-6666 anche via WhatsApp. Noi ci siamo. Intanto andiamo a sfogliare i quotidiani. È lunedì 11 gennaio, cari ascoltatori, i titoli, il Sole 24 Ore apre su che cosa? Sulla classifica dei sindaci, i sindaci è il sondaggio IPR Marketing ogni anno sulla fiducia dei sindaci, dico subito chi è il sindaco che ha ottenuto più successo, è il sindaco di Lecce, Paolo Perrone, che si aggiudica così la nuova edizione del Governance Poll, davanti al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. E poi tutta la classifica la vedremo però più avanti. Il Corriere della Sera invece apre, come molti quotidiani, ancora sul caso Colonia. Più di 500 denunce, le molestie di massa in Germania. Il nuovo caso appare in una discoteca della Vestfalia. Per Repubblica, Colonia, attacco pianificato, molestate la donna bianca. Questo è il leitmotiv che era stato diffuso, che è stato diffuso a Capodanno, soprattutto sui social network. Donna, regia per gli assalti, questo è il titolo del giorno. Mentre il Messaggero apre su un nuovo possibile caso all'interno del governo. Droghe leggere, nuovo caso. La depenalizzazione fa scoprire una nuova grana nel governo. La coltivazione della cannabis può diventare illecito amministrativo uscendo dal penale. Per la Stampa invece gas, Putin chiede aiuto a Renzi. Libero invece fa i conti in tasca al Parlamento. Chi guadagna di più con Renzi? È l'analisi dei redditi dei parlamentari del 2015 e dopo li vedremo perché alcune cose interessanti ovviamente ci sono. Il titolo dell'Unità invece è la resa di Grillo. Dopo l'accusa di Saviano al dietro front, il capo, cioè Grillo, licenzia la sindaca e sconfessa Di Maio. Questo è il titolo dell'Unità. Il Giornale invece, tornano le pensioni anticipate, giravolte di Stato. Il presidente dell'INPS Boeri, chi vuole lasciare prima il lavoro deve poterlo fare. Come vedete le aperture sono diversificate. Io voglio iniziare da un'intervista trovata sul Corriere della Sera perché parla, ed è la prima volta che lo fa, il prefetto commissario di Roma, Tronca, Francesco Paolo Tronca, intervistato da Gian Giacomo Schiavi a pagina 8 del Corriere. Non l'ho fatto abbastanza. Parla Tronca. E in effetti è un'intervista nella quale, insomma, richiama i romani a un tanto a un sussulto civico. Ecco, Roma ce la può fare, ce la deve fare, ma serve un sussulto civico. Cari romani, lo dice il prefetto Tronca. E si parte dalle piccole cose, quei segnali che possono innescare dinamiche costruttive, strategie, visioni, poi toccheranno a chi sarà eletto direttamente dal popolo. Ma dice il prefetto, ho vissuto giorni non facili. Quando sono arrivato in Campidoglio ho trovato problemi e criticità incancrenite, stratificate, consolidate. Una macchina burocratica, una macchina amministrativa marmorizzata, diffidente, non propositiva. Quella di Roma, la più grande macchina amministrativa d'Italia, non può funzionare se è disorientata. Ma pian piano si sta rimettendo in moto. A tutti chiedo lealtà e collaborazione, sapendo che sono il primo che deve dare l'esempio. Ho usato il grimaldello per scardinare assi inchiodate. Utilizza queste espressioni proprio molto da Tronca, no? Ma non scambiamo la fermezza per autoritarismo, dice lo stesso prefetto. Per uscire da una tempesta bisogna tenere la barra a dritta. L'obiettivo per il 2016 è ridare a Roma il decoro che le compete, contrastare le negatività che sono l'alibi per non fare. Tanto non cambia nulla, è il leitmotiv. Qualcuno cita il Gattopardo, si cambia per lasciar tutto come prima? Io rispondo di no, possibilmente con i fatti. Ecco, però in questa lunga intervista, devo dire sul Corriere della Sera, non è che ci siano tantissimi fatti, tantissime cose concrete, però di alcune cose parla il prefetto Tronca, per esempio la questione delle targhe alterne. Abbiamo avviato una sperimentazione interessante nei giorni dell'allarme, il biglietto unico ecologico a 1,50 € per girare tutti i mezzi per l'intera giornata. A Milano c'è credo da 15 anni. Sono convinto che sia arrivato il momento di responsabilizzare la cittadinanza nell'uso diverso dell'auto privata. E poi il guano e gli storni. La derattizzazione riguarda le banchine del Lungotevere. Non si faceva da tempo. Per il guano e i disagi agli automobilisti rispondo che da un pezzo non si faceva una seria opera di potatura degli alberi. Non lo so, mi sembra una serie di dichiarazioni. Ecco, poi i rifiuti. Non sono un marziano. Quest'anno la raccolta rifiuti nel periodo natalizio ha avuto un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. Il personale dell'AMA ha mostrato grande disponibilità. È un primo risultato. Insomma, a piccoli passi anche Roma mette la barra dritta e esce dalla tempesta. Parole del prefetto Tronca sul Corriere della Sera. Mentre il Fatto Quotidiano continua da giorni a chiedere a Renzi e al governo che fine abbiano fatto questi Rolex acquisiti nel momento in cui la delegazione del governo è data in Arabia Saudita dai reali. Per la verità può sembrare un po' una polemica stucchevole da parte del Fatto, ma il Fatto con Carlo Tecce oggi ritorna su questa vicenda dicendo: non è petulanza ricordare che la procedura applicata dalla sicurezza del Premier non è prevista da alcuna normativa. Cioè, che fine ha fatto il Rolex? Peraltro il Fatto ha riproposto alcune foto di Renzi di recente in alcune iniziative pubbliche dicendo: beh, abbiamo chiesto anche a un esperto di orologi, in questa foto si vede che indossa e sfoggia un Audemars Piguet Royal Oak valutato sui 15.000 euro, tipico regalo che fa Putin. Ma da Palazzo Chigi smentiscono: non ha avuto regali di questo tipo da Mosca. Palazzo Chigi però ha dovuto precisare, e oggi racconta il Fatto Quotidiano, e cioè che Renzi ha effettivamente un Rolex. Ho solo un Rolex, questo era il titolo versione Renzi, ma da Palazzo Chigi dicono è un regalo di amici, però rimane il mistero sui restanti cronografi. Insomma, la battaglia degli orologi del Fatto Quotidiano contro il presidente del Consiglio Renzi continua. Mentre, cari ascoltatori, sappiate che oggi c'è una specie di sciopero bianco, è uno sciopero bianco, meglio uno stato di agitazione, di cui ci rende partecipi il quotidiano Il Messaggero a pagina 6 con Diodato Pirone. Scioperano, meglio fanno una sorta di stato di agitazione, i dipendenti della Camera. Sì, perché? Perché effettivamente questi quasi 1500 dipendenti riapre oggi la Camera e ci sono stati dei tagli allo stipendio di circa 1000 euro, di circa, scusate, 1000 lavoratori a Montecitorio. E così fa sapere Il Messaggero: un barbiere di Montecitorio tra 2 anni non supererà quota 99.000 euro lordi l'anno, così come un ragioniere o un archivista non supereranno i 166.000 euro lordi annui, perché ci sono state delle sforbiciate. I teorici, 238.000 di prima, previsti dalle vecchie regole, non si potranno più ottenere. Il taglio c'è, per carità. Anche se vale la pena ricordare, scrive Il Messaggero, che 99.000 euro lordi corrispondono per un contribuente residente del Lazio a 4.577,72 euro netti per 13 mensilità. 166.000 euro dei ragionieri, che hanno vinto il concorso per la Camera, per carità, equivalgono a 7.307,71 euro netti mensili per 13 mensilità. Ma si sa, i guai non arrivano mai da soli. E allora ecco che il barbiere scende a 99.000 euro annui al massimo, il ragioniere a 166.000, e c'è un bello stato di agitazione dei dipendenti della Camera, che per carità adesso mi scriveranno arrabbiatissimi dicendo: tu non sai che mazzo ci facciamo, tu non sai che abbiamo vinto un concorso, tu non sai, perché i propri diritti guai a toccarli. Sempre e comunque, anche se sono diritti magari pagati o super pagati, e l'errore forse è stato super pagarli in passato. A proposito di interviste, vi voglio segnalare invece questa, una bella pagina, una bella intervista, un bel colloquio con Mario Melazzini, che è un medico, da 14 anni convive con la SLA, malattia molto molto grave, e che è stato nominato a capo dell'AIFA, l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Sembra una nomina assolutamente positiva, quella fatta dal ministro Lorenzin. E Simona Ravizza racconta, a pagina 20 del Corriere della Sera, lo spirito con cui Mario Melazzini affronta, 57 anni, questa nuova sfida. A quasi 14 anni da quel 17 febbraio 2002, quando il piede sinistro non riuscì ad agganciare il pedale della bicicletta per i 40 km di corsa quotidiana, e quindi lì scoprì poi con gli esami di essere affetto dalla SLA. «So cosa vuol dire essere malati», dice Melazzini. «Splenderò e spenderò tutto me stesso per l'equità delle cure, una battaglia peraltro già iniziata dall'attuale direttore generale dell'AIFA, Luca Pani. Non si definisce un superuomo, ho il libro di Giobbe sempre sul comodino, Il suicidio assistito lo avevo prenotato nel 2003 in una clinica svizzera, ma non mi sono mai presentato. Racconta del bisogno costante di badanti che lo lavino, lo preparino per la notte, gli somministrino le medicine, lo attacchino al ventilatore e alla pompa per nutrirsi. Insomma, conosco il senso del limite. A un certo punto ho cominciato a non guardare più indietro, ma a chiedermi cosa, anche nelle condizioni in cui ero, avrei potuto fare. E riguardo ai farmaci, dice: col costo dei farmaci crescente siamo davanti a una sfida culturale epocale. Bisogna promuovere anche negli ospedali l'utilizzo dei medicinali generici e biosimilari. In questo modo, coi soldi risparmiati, si potranno avere le risorse da investire per cure come quella dell'epatite C. Insomma, so cos'è la malattia, ora mi batterò per cure più eque. Melazzini, affetto da SLA, racconta la sua nuova sfida. Così guiderò l'Agenzia Italiana per il Farmaco. Lo trovate sul Corriere della Sera, intervistato da Simona Ravizza. Eccoci qui. È proprio il caso di dire che oggi l'articolo che ci fa pensare, ci fa stare con le mani sul volante, riguarda proprio le macchine e le multe, cari italiani. Perché la notizia, pagina 25 del Corriere della Sera, è questa. Alessio Ribaudo: la telecamera e i verbali immediati per sosta selvaggia fatti con le street control, cioè quelle macchine dei vigili urbani che passano a strascico, soprattutto ci sono a Milano, Palermo, Roma, Firenze, Livorno e Foggia, sono valide. È inutile che facciate ricorso. Parcheggiate un attimo la macchina in seconda fila, non so, in corso Buenos Aires, in corso centrale di Milano. Passa la macchina, zoom, con lo street control a strascico, senza neanche fermarvi, senza neanche che possiate arrivare dicendo: no, scusi, signor vigile, mi ero fermato un secondo. Zoom, è già passata la macchina, è già arrivata la multa. È tutto valido. Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. Hello, this is George Clooney, and I also like listening to 24 Mattino. Evviva! Il grande George Clooney è tornato con noi. Allora, cari ascoltatori, sono le 7:34 minuti, siamo qui nella continuazione della rassegna stampa. Molti giornali aprono, come detto, ancora sulle vicende di Colonia di Capodanno. Perché ormai sono oltre 500 le denunce di donne che si sono dette molestate nei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno. L'articolo più inquietante, a mio modo di vedere, c'è su Repubblica oggi. Andrea Tarquini racconta, pagina 4 e 5, gli sviluppi. E gli sviluppi sono questi. Molestate la donna bianca. Così l'ordine è arrivato al branco attraverso i social network soprattutto. Molesta e aggredisci la donna bianca, usala come vuoi. L'ordine era arrivato online, organizzato così il blitz di violenza sessuale contro le infedeli diffuso nell'Europa intera. Il messaggio più o meno era questo: a Capodanno attuate il Tahar Rush Gamea. Ovviamente questo termine, voi dite, che vuol dire questo Tahar Rush Gamea? Beh, questo termine, una fosca definizione, lo definisce Repubblica, tradotta letteralmente, fu in pratica l'altro volto, quello scuro delle primavere arabe. Significa in pratica molestare, aggredire le donne in strada, mostrando così il predominio dei maschi. E la vicenda fu appunto durante le rivolte arabe, abbastanza famosa. Ci furono anche delle giornaliste, Repubblica ricorda per esempio la storia di Lara Logan della CNN, che fu molestata mentre era in piazza Tahrir in Egitto in maniera molto molto violenta. E proprio il termine questo è nato da lì, Tahar Rush Gamea, molestie sessuali alle donne in luoghi pubblici, dimostrando così la predominanza dei maschi. Allora, il timore della polizia di Colonia è che ci sia stato proprio questo, cioè un diffondere questa idea attraverso i siti per colpire le donne bianche. Insomma, man mano che si diffondono i particolari, le notizie sono sempre più inquietanti. Come abbastanza inquietante è quello che è uscito di notizia riguardo alla vicenda dell'ultimo attentatore di Parigi, quello un po' quello assolutamente in solitaria, che in maniera un po' sgangherata, ha tentato un assalto a un commissariato di polizia con una finta cintura esplosiva e un coltellaccio in mano. Ebbene, si chiamava Tarek Belgacem. Raccontano sia il Messaggero che la Stampa, anche questa notizia è abbastanza inquietante, leggete qui Tonia Mastrobuoni, pagina 4 della Stampa, l'attentatore ucciso a Parigi era un profugo ospite in Germania. Era stato condannato più volte, era riuscito a eludere i controlli cambiando semplicemente identità. Eccoci qui, l'attentatore con la finta cintura esplosiva, scrive Tonia Mastrobuoni, era ben noto alle autorità tedesche. Gli inquirenti francesi gli avevano trovato addosso una scheda telefonica tedesca. Tuttavia, come ha ammesso ieri il capo del Dipartimento di Investigazione del Nordreno-Vestfalia, abbiamo ricostruito 7 diverse identità dell'uomo, ma non ancora quella vera. L'attentatore parigino era un fantasma che, dopo 7 diversi cambi di identità e diverse condanne per crimini comuni, era riuscito tranquillamente a chiedere asilo e a ripararsi in un centro profughi della zona industriale della Ruhr. E dunque, il capo degli investigatori ha spiegato che negli scorsi anni l'uomo si è spacciato per tunisino, marocchino, georgiano, ha scontato pene in 3 diversi carceri nella regione dopo varie condanne per possesso di armi, spaccio di droga, aggressione, molestie sessuali. E dopo queste condanne era riuscito a chiedere il diritto di asilo e aveva ottenuto il permesso di soggiorno. Ma voi capite con che razza di nemico, a volte bisogna usare questa parola, si sta combattendo? Anche un nemico che sfrutta totalmente le debolezze, le incertezze, le incapacità della giustizia occidentale e si fa beffe di questo e poi colpisce. A proposito di reati, di giustizia, eccetera, il dibattito in Italia sulla legge sul reato di clandestinità mi sembra già incanalato nel tipico binario all'italiana. Il reato di clandestinità, sì, no, boh, ni, forse lo togliamo, no, non lo toglieremo, lo togliamo ieri, no, forse non lo toglieremo, lo toglieremo con calma. Adesso Renzi ha detto lo toglieremo, ma con calma, non c'è fretta. Tutto perché lo voleva togliere in 448, ma il nuovo centrodestra di Alfano si è opposto. Ieri il capo della polizia, Pansa, ha detto la legge si può migliorare. Ecco, questa è la nuova versione. Teniamola, ma miglioriamola. Insomma, all'italiana, se inizia il gran tourbillon di dichiarazioni in cui ognuno riesce a eccepire ogni virgola. Il cambiamento delle regole lo faremo con calma, tutti insieme, senza fretta. Questo è quanto ha annunciato il premier Renzi al TG1. Quindi la depenalizzazione del reato di clandestinità non sarà all'ordine del giorno nel Consiglio dei Ministri il 15 gennaio. Non serve la demagogia, ma nemmeno il buonismo, dice Renzi. Chi sbaglia deve andare via. Appunto anche il prefetto Pansa, capo della polizia, dice la norma invece secondo me va bene, ma può essere migliorata, anche perché con la presenza di questo reato nell'ordinamento si intasa l'attività delle procure. Tra l'altro, su questo, sull'intasamento dell'attività delle procure, l'articolo più interessante lo fa Francesco Grignetti sulla Stampa, pagina 7. Racconta passo passo, in maniera didascalica e precisa, che cosa succede del reato di clandestinità? I giudici di pace ostaggio del reato di clandestinità. C'è chi del reato di immigrazione clandestina sa davvero tutto. Sono i giudici di pace che decidono del futuro di questi disgraziati, stabiliscono con un colpo di penna chi va tra i sommersi e chi tra i salvati. Tutto per 10 euro a sentenza al termine di un processo vero e proprio. Così i giudici di pace stabiliscono se il soggetto effettivamente è un clandestino oppure no e se deve essere espulso. Racconta tutto Maria Flora Di Giovanni, giudice di pace a Chieti, nonché presidente dell'Unione Giudici di Pace, che racconta un po' tutta la procedura. Intanto dice che questi fascicoli sono sempre più rari perché già nelle procure l'idea della depenalizzazione si era diffusa e quindi in molte procure non si procede più. Poi cosa succede? Quando c'è l'iscrizione al registro degli indagati, l'immigrato, immancabilmente, avendo dato generalità di comodo, sparisce dalla circolazione. Non lo si vedrà mai più in un'aula di tribunale. Nonostante ciò, il processo va avanti. Viene istituito, viene istruito con avvocati di Stato, quindi a carico di tutti noi, 500 euro a difesa più o meno. Si arriva a 3 udienze, finalmente alla 3ª udienza si arriva alla sentenza col giudice di pace che dice: mi fa male leggere di chi dice che noi giudici di pace decidiamo con leggerezza, tutt'altro, leggiamo il fascicolo, decidiamo anche se l'interessato non viene mai in aula. Questo succede al reato di immigrazione clandestina. Su questo, tra l'altro, sul reato di immigrazione clandestina o sulla depenalizzazione di alcuni reati, si apre un nuovo fronte. Il Messaggero titola così addirittura in prima pagina. E cioè, si apre un caso cannabis nel governo. Solo una sanzione per chi coltiva la cannabis. Visto che, racconta Silvia Barocci a pagina 7, invertita la rotta sulla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina, c'è il rischio di trasformazione in illecito amministrativo della coltivazione non autorizzata di piante da cui ricavare sostanze stupefacenti, il che significherebbe niente più carcere fino a 1 anno per chi coltiva una pianta di cannabis, al suo posto una sanzione da 5.000 a 30.000 euro. Su questo punto il nuovo centrodestra ancora si oppone, ma è il nuovo fronte che rischia di aprirsi dopo nel governo, dopo la vicenda appunto della immigrazione clandestina. Ma attenzione, sono le 7:43 minuti. Senti già. Vabbè, insomma, non è la canzone napoletana che noi venerdì attorno a quest'ora ci eravamo lasciati così, vogliamo risentire, Con chi gioca l'Inter? L'Inter gioca nel lunch match contro il Sassuolo. Faccio un pronostico: 1-0. Va Berardi col sinistro, palla in rete. Vantaggio del Sassuolo al 95esimo minuto. 1-0. L'Inter va sotto 0-1. Vabbè, insomma, adesso Mauro Meazza 1-0, 0-1. Buongiorno, beh, ho azzeccato il pronostico, quindi non ho azzeccato, io l'ho detto a fine 1-0. Ah, l'ho detto io a fine 1-0. Allora tu hai fatto per gufare, scusa. Non lo so. No, 1-0, io ero convintissimo per l'Inter. Va bene, innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno, è stata una domenica di sorpassi, in alto e anche un po' più in basso nella classifica. Ci sono stati dei sorpassi interessanti, ma il Sassuolo per esempio ci ha sorpassato, ad esempio, però è un caso, voglio dire. Ci sono stati altri sorpassi e quindi salutiamo la capolista che però non siamo noi oggi. No. Va bene, cose che succedono, so che già hai parlato di un'altra graduatoria, preferirei non usare l'altro termine che oggi mi dà un po' fastidio, mi dà un po' sui nervi. Già hai parlato di una graduatoria che riguarda i sindaci d'Italia. Quindi sì, l'ho solo citata, però insomma. Sì, c'è questa graduatoria, ci sono dei posti, naturalmente, alcuni stanno più in alto, cioè hanno più gradimento, altri meno gradimento. È l'abituale annuale sondaggio che svolgiamo. Presentiamo oggi sul Sole 24 Ore, caro Alessandro. Vince Lecce, diciamolo, il sindaco di Lecce, quello che ha più alto. Vince Lecce, sì, non Napoli, anche se non c'è Napoli, anche se tu continui, tu e Peter continuate a mettere queste canzoni napoletane, però qui la vittoria viene assegnata a Lecce. O poi ci sono diverse graduatorie. Usiamo questo termine che mi è più neutro. E insieme ti vorrei anche segnalare, in poche pagine più avanti, che ci sono delle soluzioni per la questione dei collaboratori. Sai che non ci sono più i Coco Pro. Ti eri smarrito su questa cosa. Ci sono i Coco Co di nuovo. Siamo tornati ai Coco Co, ma con qualche problema per alcune posizioni, ad esempio gli insegnanti di scuole private o i ricercatori universitari o altro ancora. Allora Francesca Barbieri, insieme ai nostri esperti, ti spiega come si sta cercando di risolvere il passaggio alle nuove norme. Ti vorrei, tra l'altro, anche segnalare una pagina molto interessante su norme e tributi, che tu non mi devi trascurare neanche il lunedì. Assolutamente, anche se ti concentri sulla Gazzetta dello Sport, che comunque non ti darà una grande soddisfazione. Infatti, ti vorrei segnalare pagine di norme e tributi, il diritto all'oblio. Te lo ricordi il diritto all'oblio? Come no? Ecco, visto poi nei tribunali caso per caso, si rivela meno praticabile di quanto sembrava all'inizio. Ma tutto questo ti viene spiegato, naturalmente, nelle pagine di tributi che tu leggerai religiosamente. Bravissimo, mi piace quando sei così solerte. Oh, e poi ti volevo dire, sempre nelle pagine di norme e tributi, la questione delle superfici degli appartamenti. Tu dici, non sono uguali per tutti? No, da comune a comune, per i permessi di costruzione, ad esempio, ogni comune ha un po' il suo modo di contare il suo regolamento. Una collezione di difformità che presentiamo proprio oggi, con una graduatoria appunto su norme e tributi, questo sempre per non usare. Oh, poi abbiamo anche naturalmente le pagine dell'esperto risponde, ti segnalo soprattutto le pensioni, le nuove regole pensioni 2016. Hai lì i due urini? Come sempre. Bravo, perché li puoi spendere, la soglia del contante come sai è cambiata, ma non è cambiata in modo uniforme. Quindi leggi religiosamente non norme e tributi, ma la pagina 5 del Sole 24 ore di oggi. Tutto ciò premesso, salutiamo doverosamente la capolista, che ohimè non siamo noi. Cosa sta preparando Peter? No, è sempre Pavarotti, no. Dai. Ah, va bene, niente, allora se è il maestro lasciamolo pure andare. Naturalmente io non posso che lasciarvi con il mio abituale saluto, un po' più maestro, devo dire. Traffico. Quando parli sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Allora, ci sono ancora tante notizie che vi vorrei dare. Beh, intanto la prima è la polemica di Quarto, di cui parleremo anche noi con Oscar Giannino dalle 8.40 a Quarto, dove il sindaco del Movimento 5 Stelle di fatto ormai è ufficialmente sfiduciato dallo stesso Movimento, nel senso che Beppe Grillo ha chiesto a Rosa Capuozzo di fare un passo indietro. Noi siamo il Movimento 5 Stelle, l'esempio vale più di qualsiasi poltrona, dobbiamo garantire il Movimento 5 Stelle tutto, per questa ragione chiediamo con fermezza a Rosa Capuozzo di dimettersi e far tornare alle elezioni Quarto. Sapete lì la vicenda di un consigliere che poi è stato cacciato dal Movimento, che è ora indagato dalla direzione antimafia perché l'accusa è che la Camorra votasse per lui, cioè lo spingesse per le elezioni. Ora, che farà Rosa Capuozzo? Al momento sembra in trincea, sembra voler dire, sostenuta tra l'altro anche da Pizzarotti, anche lui sindaco del Movimento 5 Stelle, ma spesso in conflitto con gli stessi vertici, a dire rimani. È una vicenda politicamente molto, molto, molto controversa, politicamente anche molto delicata per il Movimento 5 Stelle. Le parole di Luigi Di Maio, laconico, sul Corriere della Sera, racconta Emanuele Buzzi a pagina 9. Questo episodio, ha detto il vicepresidente della Camera, mi ha fatto male all'anima. I voti delle mafie sono irricevibili anche quando non sono determinanti. Per il resto, silenzio. Si decide tutto alla Casaleggio Associati e ovviamente grande tensione politica su questa vicenda. A proposito di politica, vi segnalo su Libero, se volete fare un po' di calcoli dei redditi 2015 dei politici, eccoli qui, i redditi di Palazzo. Franco Bechis racconta. Intanto in base ai redditi, e quindi si scopre che quello che ha dichiarato di più in Parlamento è Giulio Tremonti, che ha dichiarato la bellezza di quanto 3.937.517 euro, quasi 4 milioni di euro. Davanti a lui Nicolò Ghedini, cioè dietro di lui al secondo posto Nicolò Ghedini, il cui reddito tra l'altro è salito del 6,76% nell'ultimo anno rispetto a quello precedente, è arrivato a quota 2,46 milioni. E poi, al terzo posto Alfredo Messina, direttore finanziario del gruppo Fininvest, storico, oggi senatore azzurro. Al quarto posto Alberto Bombassei, industriale del gruppo Brembo. Al quinto posto Renzo Piano, senatore a vita. 1,36 milioni di euro. Ma interessante è l'analisi di Franco Bechis di quanto sono gli scarti dei guadagni di alcuni parlamentari rispetto a quando erano al governo. Il caso su tutti è quello di Mario Monti. Ebbene, Monti fa bingo da quando non è più presidente del Consiglio. Pensate che la Presidente del Consiglio della Premier, Mario Monti, dichiarava 288.896 euro, ora è tornato a dichiarare 775.552 euro, un aumento del 168,44%. Il secondo più beneficiato, se volete, è Francesco Bonifazi, che è il tesoriere del PD. È passato da 174.580 euro a 291.140 euro come reddito, un aumento del 66,76%. Comunque c'è tutta la classifica dei redditi su Libero, così potete sbizzarrirvi se volete, siete anche un po' incuriositi, un po' invidiosi a capire chi guadagna di più. Poi, la notizia è solo da citare perché siamo quasi in chiusura, la vicenda di Sean Penn. Ma che ha combinato Sean Penn? Secondo me Sean Penn non ha fatto niente di male. È andato a intervistare El Chapo, il leader del cartello di Sinaloa, il più grande narcotrafficante al mondo, uno dei più importanti, che è stato catturato dopo che era evaso da un carcere, è stato catturato dopo qualche mese di latitanza. Non ha fatto nulla di male. È andato a intervistare, perché andare a intervistare Bin Laden quando era vivo in latitanza, come aveva fatto uno della CNN, era grave? No. Ha fatto il giorno, quello che dovrebbe fare un giornalista normale. È andato a intervistare il Chapo. E allora? Intervista al Chapo, lo scoop di Sean Penn. Washington però si infuria. Ora l'attore è indagato anche in Messico. C'è questi stralci di intervista per Rolling Stone che Sean Penn... Che tutti i giornali italiani ripropongono, le parole del boss a pagina 15 del Corriere, su Repubblica, un po' ovunque. Sean Penn, insomma, secondo molti ne ha combinata una delle sue, è andato a intervistare El Chapo, come i giornalisti che intervistarono chi? Pablo Escobar, giusto per rimanere in ambito di droga in Colombia, chi? Osama Bin Laden, e quindi è tutto a posto così. Va bene, siamo in chiusura, siamo alla carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali è un'intera pagina della Stampa di Fabio Sindici da Los Angeles, dedicata al fitness, fede e piegamenti. Le vie del fitness sono infinite, dalle pedalate al profumo di incenso, allo stretching zen. Sempre più si uniscono alla cura del corpo e dell'anima. Il fitness. Ma chi se ne frega?